La fede, fulcro del sistema sociale. La comunità umana è veramente comunità umana solo quando la sua esistenza si articola nella sua macrostoria e nelle microstorie degli appartenenti ad essa, partendo dalla professione di fede che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. Questi sono i cardini su cui si muove la società umana quando è costruita a misura d'uomo. Essa è veramente umana quando è costruita e strutturata secondo il modello proposto da Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Sulla faccia della terra, gli uomini, nel corso della storia, hanno fondato delle comunità utilizzando come fattore di unificazione e come collante sociale la razza, i vincoli di sangue, i rapporti tribali, l'appartenenza a una particolare area geografica. Questi criteri hanno condotto alle infauste conseguenze del razzismo e del nazionalismo. Il vincolo che unisce gli appartenenti a una comunità veramente umana è la convinzione incrollabile che nessuno, tranne Allah, ha diritto di essere padrone dell'uomo e che Muhammad, che Allah lo benedica e lo abbia in gloria, è il maestro, è il modello della vita autenticamente umana. In questa concezione si cancellano le differenze di razza, di sangue, di tribù, di geografia. Con la sua entrata nell'Islam, l'uomo, instaurando volontariamente con Allah un rapporto di dipendenza soggettiva che si aggiunge a quel rapporto di dipendenza oggettiva che riguarda, a prescindere dalla sua volontà, l'aspetto fisico della sua esistenza terrena, entra a far parte della comunità musulmana, qualunque sia la sua razza, il suo colore, la sua lingua e il suo luogo di nascita. Chiunque creda nell'unità, unicità e unipersonalità di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e nella missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e, coerentemente a questa fede, pratichi la sua vita in obbedienza al sublime Corano e alla nobile Sunna dell'Apostolo, fa parte di questa comunità che Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, qualifica come la miglior comunità di uomini. Il fattore di coesione che Allah rifulga lo splendore della sua luce indica agli uomini come fattore determinante per la costruzione della società autenticamente umana e la comunanza della fede che, essendo indicata da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, è sicuramente, per la sua provenienza, cosa ragionevole e rispettosa della dignità umana, sicché, in quanto tale, è applicabile a tutta l'umanità. Nell'ordinamento islamico della vita, la fede, oltre che alla base dei comportamenti morali che riguardano la sfera privata dell'individuo, sta anche alla base di tutte le azioni in cui si realizzano le dimensioni del sociale, del politico, dell'economia e del diritto. In questo reticolo concettuale, il fattore di realizzazione della pienezza umana, sia nel privato che nel sociale, è la fede nella provenienza divina del sublime Corano e nella missione apostolico-profetica di Mohammed, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. I comandamenti e la dottrina del sublime Corano, unitamente ai precetti e al magistero apostolico-profetico di Mohammed, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, sono, nella loro combinazione dottrinale e normativa la fonte delle istituzioni sociali, dalla famiglia allo Stato, in cui l'uomo realizza la sua dignità umana. E la dignità umana consiste nell'aver l'uomo come suo padrone e signore, solamente Allah sia gloria a Lui l'Altissimo. Questa è la società musulmana. Essa e la sua civiltà sono universali, cioè destinate a tutta l'umanità nella loro origine e nella loro destinazione.